Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Bollette, bollette, ancora bollette. Avevamo parlato con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre di vicende anche paradossali con cifre addirittura a 4 zeri. Fortunatamente una di queste vicende è andata a buon fine. Ben trovato il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Un saluto a tutti gli assunti. Dunque, in questo caso parliamo di una bolletta di più di 20.000 euro, giusto? Sì, una bolletta del gas di circa 20.000 euro di una famiglia che abita nel Veneziano, di cui si è vista recapitare qualche anno fa e che si è conclusa positivamente proprio in questi giorni, in cui sostanzialmente l'Enel Gas ha messo il proprio errore e ha chiuso questa pratica con tanto di soddisfazione da parte dei nostri uffici e anche del socio che si è rivolto da noi disperato a suo tempo. Era il 2007 quando questo signore di Mirano appunto si vide recapitare questa bolletta. Nell'arco di 35 giorni risultavano consumati 30.000 metri cubi di gas, e nemmeno fosse una fabbrica, quando normalmente il consumo è tra i 1.500 e i 2.000 metri cubi. La domanda che ci facciamo è: come è stato possibile che si calcolasse questo consumo? È un problema del contatore? Su come è stato possibile ancora c'è un grande mistero, in quanto già il contatore, ma i stessi tubi che dimensionano il collegamento del contatore all'utenza domestica, non può al massimo far transitare più di circa 15-20 metri cubi al giorno, addirittura massimo 30 per certe situazioni particolari. E certamente dopo anni in cui il socio ha tentato da solo a chiudere questa pratica senza riuscirci, certamente l'Adico, con l'aiuto dei nostri esperti, lo ha fatto, dimostrando come tutta la vicenda era assurda, sostanzialmente riconducendo l'errore sul contatore, che a nostro avviso è inspiegabile anche da parte di tutti gli interessati, cioè deve aver dato i numeri e aver girato l'impazzata senza appunto neanche una giustificazione, perché cose incredibili come questa certamente, per fortuna devo dire, è stata veramente ed è rara. Ovviamente immagino che lui non abbia pagato una cifra molto importante, appunto 20.000 euro, quindi come si è risolto anche formalmente questo debito tra il vostro socio e l'azienda? Praticamente la vicenda risale, come ha detto, nel 2007, e questo socio ha rilevato questa bolletta, ha cercato autonomamente di venire a capo rivolgendo gli uffici e anche incaricando degli esperti legali che lui conosceva, ma sostanzialmente non è mai venuto a capo. Con l'intervento dell'Adico e anche con i canali che l'associazione ha rispetto magari chi altri comunque può svolgere lavori di vario genere, è riuscito a risalire a tutta quella che è una ricostruire tutta quella che è stata una vicenda che si è protratta per anni, fin tanto che lei a un certo punto ha messo nell'incredulità di tutti un errore che a nostro avviso si può ritenere madornale, in quanto non avendo la possibilità di dare una risposta hanno preferito stornare tutto quello che era il consumo e il costo, e sostanzialmente ripartire da zero da una lettura presunta che sostanzialmente va a far pagare quello che normalmente la persona ha sempre pagato in tutti questi anni. Il contatore è rimasto quello o è stato cambiato per sicurezza? Il contatore è stato cambiato per sicurezza, e diciamo che poi alla fine anche il socio addirittura terminato che è migrato un altro operatore, poi è tornato indietro, alla fine è ritornato con la sua utente affezionata, e pertanto questa vicenda si è conclusa anche con una stretta di mano. Però certo che quando si tratta di queste bollette o di conguagli non è la prima volta che l'Adico si interessa, perché purtroppo il problema delle bollette è un problema molto molto frequente che vede sempre l'Adico normalmente impegnata nella percentuale più numerosa delle attività delle pratiche che svolge comunemente. Due consigli brevi per chi si vedesse recapitare bollette in modo anomalo, più corpose rispetto al solito. innanzitutto è sempre opportuno fare le letture e non basarsi solamente sulle stimate, e in secondo luogo sapere che nel caso che non arrivano bollette è sempre meglio verificare gli addebiti in banca per far sì che poi, se non sei in grado di poter pagare importanti importi, si possa magari pensare di poter rateizzarlo, evitando di pagare anche gli interessi. Nel dubbio, se si hanno anche c'è la certezza che quanto pagato sia dovuto, si potrebbe fare un'analisi della bolletta e soprattutto verificare che l'utenza a cui si può rivolgere sia anche organizzata nel territorio per potersi rivolgere agli uffici anziché ai call center, che non si capisce mai poi da dove rispondono. Tu mi confermi che le bollette entro qualche mese o l'anno prossimo dovrebbero essere più chiare nella loro forma, nella loro possibilità di essere comprese? Questo deve essere l'ultima disposizione che è stata impartita e che l'Italia ha recepito, quindi per effetto anche di quelli che sono stati gli interventi e le segnalazioni delle associazioni e dell'antitrust e di adeguamento europeo, si dovrebbe arrivare ad avere una bolletta certamente molto più comprensibile rispetto a quella che oggi praticamente non è. Bene, allora, vicenda finita positivamente per questo socio. Attenzione alle bollette pazze, alzate subito le orecchie e la cornetta per chiedere chiarimenti. Grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, settimana prossima ancora insieme per altri due argomenti, buon proseguimento. Grazie a te amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.